Wave, l'onda del rock. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, buon mercoledì 2 novembre del 2011, questa è Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato, siete su Blu Radio Veneto, e buonasera anche al collega di cordata Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, in questa serata musica davvero particolare, come in fondo abbiamo abituato i nostri ascoltatori, sempre serate diverse, sempre musiche diverse, ma sempre con alto contenuto. Arrivano direttamente da Forlimpopoli, per chissà dov'è questo paese in Romagna, e loro sono i Marca Bru. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao. Buonasera, non ho sentito la voce femminile, visto? Buonasera. Bonsoir madame, salutiamo anche Marie, quindi siamo, sono quattro i componenti di Marca Bru, quindi abbiamo Fabio, Fiorino, Fiorenzo e Marie per l'appunto. Allora, da dove possiamo iniziare Marca Bru? Innanzitutto da quello che è il vostro nome. So che non ve l'avrà mai chiesto nessuno, però qualcuno si è anche documentato e saprà che Marca Bru è... Due punti. Marca Bru è il nome di un trovatore provenzale, un poeta, che abbiamo scelto perché ci suonava bene il nome e anche perché era un tipo strano, era un girovago, un randagio, uno che andava a portare la sua poesia in giro e ci piaceva l'idea. Era uno dei veri trovatori occitani che nel XIII secolo raccontava storie. Esatto, poi la sua provenienza, era uno dei più proletari fra i trovatori, perché ci sono dei trovatori di tutti i tipi, ci sono dei nobili che facevano il trovatore, c'era un vescovo addirittura, Folchetto da Marsiglia, che era trovatore. No, lui era un poveraccio, però fece fortuna con la poesia e questo ci piaceva. Insomma. Quindi era di basso rango praticamente. Era di basso rango. E quello era positivo praticamente. Era un trovatello, cioè non sapeva neanche chi fossero i suoi genitori, lo raccolsero Quindi l'hanno cresciuto, è diventato un grande poeta. E si fece strada appunto con il nome di Marca Bru. Adesso, a distanza di qualche secolo, avete ripreso il nome per fare un po' di strada. Sì, lo consideriamo un po' il nostro antenato. Il nostro antenato. Cioè, anche noi ci consideriamo dei randagi. sì, dal punto di vista... cioè, ci piace muoverci anche musicalmente. Perché, come capirete ascoltando quello che vi faremo sentire, non seguiamo un filo, non seguiamo una filologia, cioè noi facciamo una musica che a volte facciamo fatica anche a definire. Cioè, partiamo dal folk, ma folk di tanti paesi diversi, poi folk in continua lavorazione, qualcuno ha detto, folk in continuo, cioè movimento, non un folk tradizionale, un folk progressivo, un folk e basta. Assolutamente, cioè noi partiamo dal folk per distruggerlo. Sì, esatto, per ricrearlo, distruggerlo, sì, esatto, sia dal punto di vista dei suoni, trasformarlo totale. Sia dal punto di vista dei suoni che dal punto di vista dei contenuti, poi di volta in volta quando eseguiremo dei brani vi spiegheremo cosa abbiamo stravolto rispetto alla tradizione. Due Benissimo. Album praticamente, Folk Randagio e questo qua nuovo che è appena uscito, ma Folk Randagio, alcuni critici e noi abbiamo sentito, era più legato tra parentesi al folk, anche se un po' randagio, diciamo, qui però è un po' diverso. Allora, diciamo che i suoni sono fatti un po' più elettrici nel nuovo, anche se poi nel nuovo ci sono più brani tradizionali rispetto al vecchio. Ho capito, però la chiave è diversa, totalmente. Ok. Sì. Benissimo. Ok, allora, benissimo. Abbiamo parlato di questa ma l'idea di fare la band, dobbiamo un po' andare indietro. Voi due dei componenti della band, la signora Marie e Fabio sì. avevate già un passato dietro alle spalle molto interessante, si chiamavano i Musici. Sì, i Musici sono sopravvissuti 20 anni suonando cose più acustiche, ma anche lì abbastanza sperimentali. Ma di ricerca anche quello, o no? Di ricerca anche sulle nostre radici, soprattutto dal punto di vista dei testi, della poesia. Abbiamo lavorato molto sul dialetto romagnolo, partendo dai poeti. E uno di questi poeti ce lo siamo portati poi... Nella nuova esperienza, ecco, alcuni dei brani che sentirete stasera sono appunto stati scritti da Fabio Molari, che è il poeta che ci segue da molto tempo, ancora dai musici. I musici hanno fatto addirittura un disco con tutti i testi di Fabio Molari, che si chiama Ciappa Sogni, Cattura Sogni, e ancora oggi andiamo a rubargli delle poesie per metterle in musica, ma le rubiamo anche ad altri poeti, come vi faremo ascoltare. Allora, stiamo piacevolmente conversando con i Marca Bru e dobbiamo imparare anche qualcosa della loro musica, e quindi diamo spazio a un primo pezzo subito dall'ultimo lavoro, che si intitola Derive, e ci ascoltiamo la traccia numero 5, che è The Regal Tegel Gipsy, e poi torniamo a commentarla insieme qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Rockwave, l'onda del rock. Radio Veneto. Rockway, l'onda del rock. Ed eccoci ancora qui, tornati in diretta, The Ragged Taggle Gipsy. Questa è la traccia numero 5 del nuovo lavoro dei Marca Bru, che si intitola Derive, e che sono qui con noi in questa serata all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Ancora buonasera ragazzi. Buonasera, ciao. Ciao. Flavio, questo è un pezzo assolutamente tradizionale che loro hanno ripreso, hanno selezionato, hanno rifatto, e io stavo parlando con i ragazzi prima, mi ricordava molto certe sonorità degli Incredible Street Band, una band inglese di folk, al limite del folk però, proprio al limite, vero Fabio? Cosa dici? Sì, è folk progressivo, con dentro blues, con dentro rock, c'era di tutto, proprio contaminazione totale. Esatto, contaminazione totale. Perché l'uso di questo pezzo così famoso, riveduto corretto da voi, assolutamente. Ma già ci piace, allora noi siamo definiti randagi, questa è una storia di uno zingaro, che riesce ad affascinare una signora di buona famiglia irlandese e a farla fuggire con sé, e quindi ci piaceva la storia. Poi ci piaceva, noi questa canzone l'avevamo ascoltata un po' da tanti gruppi, ma soprattutto dai Waterboys. Esattamente. Ah, sì, sì. Considero dei maestri per me, e così non avevo in mente di lavorare su questo pezzo. Poi un giorno per sbaglio accendo, cioè su internet, in diretta, un concerto dei Waterboys dalla Danimarca, e sono rimasto, era da un po' che non li ascoltavo, e questo pezzo qua mi è tornato in mente, e abbiamo cominciato a lavorarci, è venuto fuori questo. Bene, bene. Quindi, sai che ha inciso un nuovo album i Waterboys, sì, chiudo Flavio, è uscito da pochi giorni. William Butler Yeats. Bravo, bravo. Un'altra delle... Sai tutto allora. No, è la mia passione. Appunto. Ok. Ecco, magari Fabio, se parli più vicino al microfono, sì, così i nostri ascoltatori possono sentire meglio quello che stai dicendo, assolutamente cose interessanti. Quindi un pezzo che viene dalla tradizione, come sottoscrivete voi gran parte dei pezzi che avete qui all'interno di questo Derive. Diciamo che questo era molto rock, nonostante l'etnia. Ma diciamo che tutto quello che facciamo di tradizionale nell'ultimo disco, quasi tutto diventa rock, tanto che quando ci chiedono cosa suonate io non so più cosa rispondere. Facciamo del folk, facciamo del rock, è anche difficile trovare delle collocazioni, cioè per i concerti, cioè nei circoli rock, nei circoli folk, dite voi. Anche perché una volta, quando c'era il folk randagio, si diceva c'era un folk agreste, perlomeno terrestre, invece in questo caso si cancella tutto, si cancellano o quasi le origini. Ma a noi non piace cancellare le origini, piace stravolgere, piace modificare, cambiare, rivedere, partire dalle radici però far venire fuori qualcosa di nuovo, perché non si può restare tutta la vita a fare cose di 500 anni fa, sono belle, certo. Però oggi noi viviamo il presente, insomma, con le sonorità di adesso e con idee diverse, nuove. Rifare quello che hanno fatto già in 500 non ci interessa, ecco. Assolutamente. Allora, i Marca Bru sono venuti, oltre che con la macchina qui da noi, sono venuti anche con gli strumenti musicali, perché ci suoneranno anche qualcosa in diretta e scopriremo anche degli strumenti musicali, che è la prima volta che ospitiamo nei nostri studi. La loro particolarità poi ci verrà descritta. Da cosa cominciamo, Fabio? Presentare strumenti? No, presentare la canzone. Brani. Poi. Sì. Beh, anche se vuoi presentare gli strumenti. Vai, di volte in volta. Sì, okay. Dire qualcosa, sì. Ecco. Un brano non tradizionale, però in dialetto delle nostre parti. Questo è dialetto della zona di Raffaello Baldini. Come avete mai sentito? Uno dei più grandi poeti, è morto 4 anni fa. È uno dei più grandi poeti romagnoli degli ultimi 50 anni, forse anche di più. È il dialetto di Longiano, il dialetto nella zona fra Rimini e Cesena, perché è molto diverso rispetto, che ne so, a Ravenna o a Forlì, cioè è completamente diverso, a volte facciamo fatica anche a capire. Ecco, noi usiamo questo dialetto perché il poeta che ci scrive da tanti anni i testi viene da quelle zone. Questa è una sua poesia che abbiamo preso, anche questa modificato, perché modifichiamo anche la roba dei poeti, no? E poi vedrete dopo. Sì. E abbiamo costruito noi una musica e un arrangiamento. Facciamo ascoltare. Sì, questo parla, è anche... Ecco, scusa. Prego. L'ultimo disco, Derive, appunto, parla molto di mare. E questa è una delle canzoni, appunto, che raccontano questo viaggio per mare, il mare è un po' come metafora della vita. E qui sta metafora è raccontata a una figlia. Traversa tutte mer. Piscina luce, avnison, piscina d'ombra, stasei se fonde, stasei se fonde. La berg de vent la arriverà dagli ondi da spavent, la arriverà dagli ondi da ride, dagli ondi da ride arriverà a matera la berg de vent la sa. La sporta che viola la berca la traversa tutte me. L'onda del rock. Abbiamo ascoltato il primo pezzo live in questa serata. Sono con noi i Marca Bru, un pezzo che apre proprio il nuovo CD dei Marca Bru. Si intitola La Berg de Vent. Spero di aver pronunciata correttamente. Comunque Sarebbe la barca a vela in questo caso, mi sembra di capire giusto. Sì, la barca a vela, la barca trasportata dal vento. La barca trasportata dal vento, tra altre cose, come ricordava Fabio, è un disco improntato sulla voglia di mare, sulla voglia di evasione, e c'è anche sono due righe scritte da voi, forse ad omaggiare anche un grande artista, questo Herman Melville. Scrivete appunto: un taglio alla mia gomena, andare alla deriva. È un pezzo tratto da Billy Budd, appunto di Herman Melville, che è la storia proprio di mare, ambientata su una nave da guerra inglese a fine del Settecento. Lo stesso Melville aveva già scritto anche Moby Dick, mi sembra. Sì, sì, sì, sì, le storie di mare che ci prendono molto. Diciamo che il primo disco era un disco in cui si viaggiava molto sulla terra, folkrandaggio appunto, qua si viaggia per mare e un po' anche per cielo, puoi vedere l'onda che diventa nuvola, eccetera. Quindi... Fabio, tu hai citato gli strumenti particolari, adesso parliamo del tuo strumento che hai suonato. Eccolo qua. Sì, ci mette un distorsore, sembra una chitarra elettrica. Invece è uno strumento del 600 che ho ricostruito vedendo un'immagine che ho trovato. È un bel cittern, cioè un cittern a forma di campana. È uno strumento che si usava nella zona fra la Francia e l'Olanda nel 1600, per la musica popolare, cioè non era uno strumento nobile. Cioè, quelli che facevano musica colta suonavano il liuto, quelli un po' più scarsi. Che però ha un suono vigoroso comunque. Vogliamo sentirlo senza alcun sottofondo? Senza nulla. Quasi un sitar in alcuni momenti. Ma è uno strumento che è a metà fra il buzuki, la mandola e... Il Saz arabo, turco, cioè, quindi sì. Orientale sicuramente. E il modo di accordarlo è sì, certamente è un po' verso la Grecia, Oriente, eccetera. Poi vabbè, l'origine però è più francese, più Europa occidentale. Ok, sì. E poi parliamo di questo strumento meraviglioso. Questo strumento australiano, adesso parli te, visto che sei qua davanti. Tu ami molto l'Australia, non hai la maglietta australiana? Mi pareva di sì prima. Ce l'ho, ma è qua dietro. Qua dietro, mi pareva. Sì, sì, vai. Allora, ci parli di questo strumento splendido che hai usato. Diamo la parola a Fiorino. Esatto, Fiorino. Il didgeridoo, che in realtà quello che ho suonato adesso è un didgeribone. Cioè, che differenza c'è? Il didgeribone è uno strumento in plastica che serve per viaggiare, appunto, e quindi lo uso molto con i marcabrù perché viaggiamo. Però il didgeridoo, che in realtà si chiama Idaki, il nome originale, che proviene dall'Australia, è strumento degli aborigeni australiani. Noi lo conosciamo col nome didgeridoo perché quando gli occidentali arrivarono e videro per la prima volta, anzi sentirono per la prima volta questo strumento, faceva un po' così e lo chiamarono con un nome. Ecco, questo ho capito. Didgeridoo. In realtà ha ben 50 nomi già in Australia, mi sembra, questo strumento musicale. Sì, in realtà ogni clan ha una lingua diversa, un dialetto diverso e lo chiama in tanti modi. E comunque è quello convenzionale, diciamo, è rimasto questo didgeridoo, che sì. Stiamo ascoltando. Idaki è il nome Idaki. Suo. Benissimo, Idaki allora. La percussione particolare che hai usato te, come si chiama quel tamburo o specie di tamburo? Allora, quello che ho in braccio in questo momento, che non ho ancora suonato. Non è ancora suonato, però. Che sto per suonare è il tamburo tradizionale irlandese, che si chiama Boran. Ah beh, vero, hai ragione, perfettamente. Fammi un momento un accenno del suono. Mi ricordo i chieftains, quindi arrivo a quelli, assolutamente. Esatto, sono quelli che poi l'hanno... Sono quelli che l'hanno esportato e fatto conoscere un po' in tutto il mondo. Non solo questo strumento, ma tutti gli strumenti tradizionali irlandesi. Irlandesi, esattamente. Mentre da Marie suona un basso, non dico tradizionale, un basso elettrico, praticamente, vero Marie? Sì, in questo momento sì, però è un modo un po' particolare di suonare. E come, Marie? È il rovescio. Ah, esattamente. Ecco. Perfetto. Vabbè, allora abbiamo presentato anche la strumentazione, adesso un altro brano live, visto che anche Fiorenzo ha preso in mano questo tamburo irlandese e ci ascoltiamo quindi qualcosa da su. Sì, questo è tradizionale, ma vedrete sembra meno tradizionale di quello non tradizionale di prima. Questa è un'idea che ci è venuta una settimana fa esattamente, cioè quindi... è una cosa nuovissima, è un pezzo che faccio da 25 anni, sì. Una settimana fa ho detto basta, cambiamo tutto, ho buttato via il ritornello e beh, adesso ve lo facciamo sentire, completo... cioè, i puristi secondo me non mi saluteranno più, non ridisco, però vabbè, bisogna cambiare, no? Certo, certo. Thank you. Wave, l'onda del rock. Davvero fantastico anche questo pezzo dal vivo, rigorosamente dal vivo. I Marc Bru sono qui da noi, qui a Blu Radio Veneto, e ci siamo ascoltati questa Wild Rover. Salutiamo ancora i Marc Bru, quindi salutiamo Fiorino, Fiorenzo, Mari e Fabio. Grazie ragazzi di essere venuti qui per farci sentire la vostra musica, farla sentire ai nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Dobbiamo salutare anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che ha voluto fortissimamente qui stasera i Marc Bru, e ha fatto decisamente bene. Un pezzo molto duro anche come impostazione vocale, Fabio, questo qua. Proprio duro, nel senso... Io non sono un cantante, cioè... Con un pezzo di blues messo insieme, impastricciato, in senso positivo. Sì, assolutamente. Cioè, io non sono un cantante di blues, non sono un cantante di niente, però mi piace urlare nei microfoni, questo è il risultato. Ok. Beh, un urlo positivo, non è un urlo negativo, assolutamente. No, l'urlo è sempre positivo. Esattamente, come in qualsiasi cosa si faccia, è sempre positivo l'urlo, c'è poco da fare. Poi, musicalmente, questa ricerca, ricordo, non so Flavio se ti ricordi, sicuramente te sì. Gli Actuali, che facevano un discorso di questo genere, cioè cercavano le cose, facevano musica etnica. Una volta si chiamava musica etnica, adesso è un po' sorpassata la definizione, però una volta si chiamava musica etnica questa ricerca. Poi si passa anche rapidamente alla world music, che rappresenta un po' questi generi musicali importanti e anche, diciamo, in certe situazioni importati e fatti nostri. Ma c'è qualcosa di etnico in quello che facciamo, appunto perché viaggiando raccogliamo quello che ci capita per la strada. E, però è difficile, cioè, dire che facciamo world music. No, etnico come ricerca, voglio dire questo. Sì, come ricerca sicuramente. Poi dentro ci mettiamo di tutto. Allora, sì, volevo capire un attimino come veniva strutturata i vostri appuntamenti live, quando suonate e cantate in mezzo alla gente. Come vi strutturate all'interno di questa sala e la gente come vi ascolta? Ci sono situazioni molto diverse, dal concerto in teatro, ma più spesso pub... club dove si fa musica dal vivo, anche posti molto piccoli, qualche piazza, festa popolare. Qualche volta suoniamo anche da ballo con repertori un po' diversi da quelli dei dischi, perché facciamo anche di questo. Cosa vuol dire suonate da ballo praticamente? Da ballo vuol dire che prendiamo balli irlandesi, scozzesi, francesi, eccetera, sempre a modo nostro. A volte ci aiuta altri musicisti, pipers, cioè suonatori di cornamusa, eccetera, e in quelle occasioni facciamo anche ballare. Quindi un gruppo aperto assolutamente il vostro? Sì. Infatti due sere fa abbiamo fatto un concerto e quando apriamo ad altri musicisti non ci chiamiamo più Marc Bru, rovesciamo Urba Cram, cioè è Marc Bru a rovescio. E quindi diciamo, chi sono questi? Marc Bru, vabbè, comunque no, ci piace rovesciare tutto. Bene. Bellissimo questo. Allora proprio lasciare alla deriva anche il CD in questo caso, un CD che state presentando in questo periodo, che raccoglie 11 tracce, qualcuna anche solo suonata, appunto qualche, diciamo, ballata o qualche danza popolare, perché poi parleremo anche di danze popolari anche israeliane, se non sbaglio. Qui abbiamo messo assieme cose arabe e cose israeliane, cioè, ci piace mescolare anche storie di guerre. Nel disco precedente c'era un brano che si intitolava Palestina, appunto che poi ascolteremo. Diciamo che noi non, fino a qui non abbiamo fatto politica direttamente con la musica, però secondo noi la poesia è già politica, e i testi poetici possono comunicarti un'idea anche politica, e questo che ci piace. Certo, allora adesso prendiamo un po' di fiato, ci ascoltiamo un altro pezzo dal vostro album Derive e ci ascoltiamo questa Onda Tonda, poi torniamo a commentarla insieme qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. Spostano via stelli, un alberdetto ten stack sul ranghi la terra, ex per me le monde tef, perché ne so, sono tutto un po' come un alber, un mondo tef per me, le silenzi acqua clava, onda tonda, onda tonda, le fuga, terra scura. Del rock. Ed eccoci qua ad ascoltare anche Onda Tonda, una traccia, la traccia numero 6 contenuta all'interno di questo ultimo lavoro di Mark Bruce, intitola Derive il lavoro, e abbiamo ascoltato proprio questa canzone che sembrava già, si diceva onda tonda, proprio sempre ripetuto e ben ritmato, ma dava proprio un certo carattere rotondo, si può dire, alla canzone. Ma è una canzone di ricordi, una canzone, il poeta ricorda quando era bambino, da dove viveva lui, cioè in collina si vedeva anche il mare, allora fa una gran confusione, cioè l'onda del mare, la collina, la terra, il luogo dei giochi, è il luogo della sua infanzia. Certo, quando parliamo di poeta parliamo di Fabio Molari, poesia che tu, Fabio Briganti, in questo caso hai musicato insieme a loro. Proprio insieme a loro, come vi siete conosciuti insieme a loro? Dai, tutti quanti, come vi siete conosciuti? Chi parla? Parlo io. Il nostro percussionista, dai. Allora, noi ci siamo conosciuti fondamentalmente nell'ambito della scuola di musica popolare di Forlimpopoli, dove a vario titolo abbiamo orbitato in questi anni. Io loro, Fabio e Marie, i veterani, diciamo così, li conoscevo perché, e per me è stato grande soddisfazione, li andavo a sentire ai concerti con i musici. Certo. E poi mi sono ritrovato a suonare con loro, quindi per me è stato la chiusura di un cerchio, la famosa onda tonda è stata anche per me. ci siamo appunto conosciuti a Forlimpopoli alla scuola di musica popolare, dove suoniamo e insegniamo gli strumenti che suoniamo, e quindi è un bel progetto, è una bella situazione, un bel luogo di incontro anche per fare delle esperienze musicali, per fare le famose contaminazioni di cui adesso stiamo portando avanti poi la storia. Sì, con questo disco sempre meglio, contaminate sempre di più. Sì, sì, io personalmente sono tornato un po' alle origini in realtà, perché dopo un inizio musicale fatto di batteria e di underground, di grunge, di rock, per motivi di... avevo bisogno di cambiare aria, mi sono dato al folk irlandese. Scoperto il folk irlandese, scoperto il mondo del tradizionale, l'ho suonato per tanto tempo per farlo mio, poi con Fabio Marie alla fine abbiamo deciso di fare un passo ulteriore e recuperare poi le esperienze che ci avevano formato, quindi certo. Io e Fiorino siamo... L'australiano come è entrato nel discorso? L'australiano è entrato prima di me, perché in realtà io sono l'ultimo arrivato nel progetto. Non ricordo sinceramente, però ricordo che tanti anni fa facevo un corso di musica d'insieme assieme a Fabio Marie. Sì, che Fabio dirigeva, e di lì non ci siamo conosciuti lì perché ci conosciamo. Addirittura io quando ero piccolino, quando avevo forse 10 anni, andavo a lezioni di chitarra da Fabio. Ah, poi dopo l'ho ritrovato che mi faceva musica d'insieme irlandese, perché mi chiedevo... Stiamo facendo credere che Fabio sia un novantenne. No, è giovane, però... Flavio lo chiamano il grande saggio, bravo. Esatto, Fabio. Sì, diciamo... Ma la barba bianca ce l'ha. Sì. Sì. Diciamo che per chi ci sta ascoltando tramite radio o tramite il nostro sito internet, quindi in streaming audio, ricordiamo i nostri ascoltatori che poi potranno vedere anche alcune immagini di quello che succede questa sera, e quindi potrete farvi un'idea anche di come sono i ragazzi e di come è il grande saggio Fabio. Di come siamo belli. di come siete belli, certo. Allora, la bellezza che voi trasmettete assolutamente in musica. Una cosa volevo chiedere: vi siete conosciuti a Forlimpopoli, però c'è una parte, diciamo, comunitaria, però fuori dall'Italia. In questo caso parliamo dell'Île de France, parliamo di una cittadina che si chiama Maison Lafitte, mi sembra si chiami così, dove è nata Marie. Ma questo tuo arrivare in Italia con questa musica, che forse dalle parti tue non forse è vissuta alla stessa maniera? Dipende dove. Perché facevamo riferimento al Marcabru che è occitano, quindi diciamo l'Occitania è la parte sud della Francia, sì, che guarda un po' la Spagna e un filino d'Italia. Sì. In questo caso tu sei dalla parte parigina, quindi... Ma diciamo che più dei parigini non viene da Parigi, ha genitori di origini diverse. Sì. Effettivamente io ho anche genitore, c'ho il genitore bretone e c'ho il genitore occitano. Ah, e quindi... Pur essendo nata a Parigi. Sì, quindi... Dunque lì si ritrova si ritrova un po' l'anima tua, e quindi anche quello che hai, come dire, emanato all'interno sì, del gruppo. Sì. Sì, sì. Maurizio. Sì, no, stavo sentendo un discorso molto interessante, quindi discorso bretone, qualcuno potrà dire vi ricordate Alain Stivell? Sì, ce lo ricordiamo tutti Alain Stivell. Io l'ho visto tanti anni fa, quando in Italia era molto famoso, è famoso ancora adesso, però un po' di nicchia adesso, è un po' dimenticato. Ma sapete che il Britney Spears si chiama Britney perché i genitori amavano la Britannia di Alain Stivell. Avevano sentito, la Stivali e chiamarono la figlia Britney, Britannia. Ha fatto un'altra strada però, assolutamente. Decisamente un'altra strada. Assolutamente non quella Breton. No. Diciamo. Vabbè, comunque rispettabile anche la sua maniera di fare musica. Ci ascoltiamo ancora qualcosa del vostro live. Allora, abbiamo un qualcosa di francese, esatto, in questo caso. Esatto, era tutto preparato. Vedi. Allora, questa l'abbiamo rubata... Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. Sì. Ci abbiamo lavorato un po' di tempo e poi questa canzone ci ha permesso di ricevere un premio al MEI e al Festival Internazionale della Poesia di Genova, dove siamo stati poi invitati a suonare nello scorso mese di giugno. È stata una bella esperienza. Ricordiamo che Arthur Rimbaud era uno scrittore francese dell'Ottocento, grande poeta, visionario, sì. E questa poesia randagio. Assolutamente randagio. E questa poesia è una delle più visionarie in assoluto. Per capirla, commentarla, ci hanno scritto su dei libri, sono pochi versi. E noi abbiamo voluto, diciamo, anche noi dare il nostro contributo, tributo a queste visioni. Eccolo qua, allora Roi Blanc, il Re Bianco con Marc Bru, qui in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto all'interno della programmazione musicale di Rock Wave, l'onda del rock. Qui bombine autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Candeur des vapeurs et détente, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle, roi blanc, frisson d'ombelle. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. I pourpre sang craché, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes, pénitentes. U cycle vibrement divin des mers virides, paix des pâtissements d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E ci siamo ascoltati anche questo Roi Blanc con le parole di Arthur Rimbaud, proprio in francese, la musica dei Marcabru. Tra l'altra cosa, una particolarità che ho notato all'interno del libricino dei Marcabru, del loro album Derive, oltre ai testi ci sono anche parecchi appunti qua e là, proprio in penna o pennarello, tanto da identificare qualcosa di particolare che nel corso della canzone ha colpito. Come mai avete deciso di tenere queste scritture? Allora, due motivi. Il primo, ci piace far vedere come lavoriamo, come diciamo, limiamo a volte i testi, modifichiamo, eccetera. Secondo, perché ci piace far vedere come a volte cambiamo proprio i testi tradizionali, neanche i nostri, cioè prendiamo proprio la libertà e facciamo finire le storie in modo diverso. Questo ci piace perché prendete ballate tradizionali, di solito ci sono i deboli che ci rimettono sempre, cioè i poveracci finiscono malissimo, le donne non vi dico, cioè la canzone popolare è maschilista, cioè non ne potevamo più. Cioè, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle canzoni e abbiamo salvato le figure femminili, abbiamo salvato i disgraziati, modificando proprio i testi. Cioè, oggi non la sentirete, c'è una Dame Lombard, è una canzone che è conosciutissima dal Medioevo in avanti, sarebbe la donna longobarda, no? È la storia di questa donna che piace al re, tradisce il marito col re. Solo che alla fine, miracolo, il bambino di 3 mesi fa la spia. Il marito viene a scoprire tutto e uccide la moglie perché la moglie lo ha tradito col re. Ma perché? Cioè, voglio dire, ammazza il re che è andato lì a rompere le balle. No, allora, noi la facciamo finire in modo completamente diverso, col bambino che sta zitto e con la donna che scappa e il marito fregato. Ci piaceva farla finire in modo, perché deve sempre rimetterci la donna? Cioè, il re si è divertito, il marito la schiavizza e lei deve morire perché ha tradito. Cioè, voglio dire, non mi sembra giusto. No, il finale è giusto. Comunque l'importante, l'ascoltatore, diciamo, che sente i vostri pezzi è già al corrente di quelle che sono le modifiche potenziali. Ma le spieghiamo di volta in volta, a volte siamo curiosi di vedere se ci arrivano da soli, a volte bisogna spiegarle perché, insomma, essendo in lingue straniere è un po' complicato. A proposito del testo che avete musicato di Rimbaud, musicalmente, io voglio sapere questo, come l'avete costruito? Non era mica facile, un ritmo abbastanza delicato, sì, ma delicato solo di facciata, non è proprio così. Come mai l'avete costruito in questa maniera? Che è una ballata, sì, ma non possiamo neanche chiamarla ballata questa. È difficile, a volte vengono da sole. Marie fa molto per le musiche, per le melodie, per i ritmi. Poi noi andiamo dietro, a volte... Lei dà il tocco praticamente, l'input, tutto. Su quella ha fatto molto lei, su altre magari parto io, è un lavoro abbastanza collettivo. Ecco. Ma sempre in studio di registrazione o prima c'è già qualcosa? No, proprio ci troviamo... anche proprio senza amplificazione, senza niente, provare così. Ho capito. A volte suoniamo tanto, ad esempio quella che abbiamo eseguito prima, Wild Rover, è venuta per caso alle 2 di notte, alla fine di una prova, erano distrutti, è partito uno, è andato l'altro, dietro l'altro, io ho cercato un testo a caso e via. Ah, che a volte vengono da soli. Certo. A volte invece vengono provate un sacco di volte. Sì. Meglio. Sì. Roi Blanc paio di anni di lavoro. Bene, stiamo parlando con i Marcabru, stiamo ascoltando anche il loro ultimo lavoro, si intitola Derive, poi avremo modo anche di ascoltare un pezzo, forse anche due, dal loro album del 2007 che si intitola Folk Randagio. Siamo arrivati a metà del nostro percorso per conoscere i Marcabru. E direi che potremmo ascoltare ancora un qualcosa dal vivo, e c'è un titolo molto, diciamo, islamico in questo caso. Beh sì, sono due dande arabe, Abdallah e Aziz Laila, E forse la cosa più tradizionale che eseguiremo stasera, cioè proprio anche il modo di eseguirla è abbastanza, vabbè, poi c'è uno strumento australiano su un brano arabo e già lì vi fa capire. Fiorino, si è usato un altro strumento diverso da, sì, da quello di prima, vero Fiorino? Sì, questo purtroppo non è ancora una volta un vero Idaki, è un didgeridoo in vetro resina fatto da un ragazzo qui in Italia, Andrea Ferroni, che me li costruisce, però suonano molto bene, sono molto leggeri e comodi da portare in giro. Perfetto. Conte, l'onda del rock. Siamo ascoltati anche questo Abdallah Aziz Laila, questa ballata con un Idaki o Didgeridoo molto, come dire, ossessionante in certe situazioni, però piacevolmente intendo usare questo vocabolo. Certo, non so se hai notato, Flavio, innanzitutto che strumento Fiorenzo suonavi te? Ho suonato la darabuka in questo momento, anzi negli ultimi due pezzi, che è uno strumento, è una percussione a calice, ce ne sono di tanti tipi un po' in tutto il mondo, fondamentalmente in Oriente e poi qualcosa anche in Europa orientale, in varie tipologie diverse, in metallo, in ceramica. Adesso ovviamente anche in plastica, mentre Fabio suonava il violino e la Marie suonava il basso come fosse un contrabbasso, cioè in quel sistema là, molto interessante. Sì, Marie ha una tecnica percussiva, esatto, applicata. Per come fosse una percussione, esatto. Infatti sì. Io e Marie siamo la sezione ritmica, mica per niente. Decisamente, ok. Vabbè, allora abbiamo ascoltato anche questi due pezzi, diciamo, tradizionali, quindi pescati proprio nella tradizione. In questo caso siamo andati a toccare il Medio Oriente e anche questo pezzo è incluso all'interno del disco ultimo dei Marca Bru, che si intitola Derive, per l'appunto, e sono storie di mare. Ancora un qualcosa legato alla copertina, Fabio, abbiamo un qualcosa che si fatica ad identificare. Cosa c'è in questa copertina? Beh, c'è lì. Sì. Beh, la responsabile è la moglie di Fiorino. Eccola. Alice, che ha partecipato sia alle foto della copertina del primo album, sì, che alla. Cioè, è una foto ritoccata e ridipinta, se non sbaglio. Sì. Se non sbaglio, neanch'io. Perché noi ci arrivavano i file. Non è dipinta, ma è lavorata con il fuoco, con l'acido e con strumenti vari. Rappresenta una barca arenata, cioè solo che sì, un'immagine un po' confusa, cioè volevamo che la gente si chiedesse di che cosa si tratta. Ecco, difatti sono stato tra questi. Ecco, e tra altre cose dietro, funziona tanto, quindi funziona, sì. Assolutamente sì. E poi è ulteriormente confermato anche dal fatto che dietro c'è una barca sempre, diciamo, disegnata, arenata a modo suo, quindi un po' con un'ancora del tutto particolare, un'ancora che in senso dell'albero viene chiamata anche radice. Come mai? Sono nate le radici perché stava troppo poco in acqua? No, è un po' il riassunto di quello che facciamo noi. Cioè noi viaggiamo musicalmente, poi ogni tanto torniamo alle nostre radici. Ma più che altro ce le portiamo dietro, le radici. Ce le portiamo sempre dietro, quindi non ci dimentichiamo da dove siamo partiti, ecco. Ma senza restar lì. C'è molta gente che dice bisogna mantenere le radici, bisogna fermarsi alle radici, bisogna studiare per rifiutare gli altri. Cioè per rifiutare quelli che vengono magari dal Medio Oriente o quelli che vengono dalle Americhe o quelli che... No, a noi ci piacciono le nostre radici per andare a scoprire quelle degli altri. Certo. Cioè se noi ci fermiamo alle nostre radici siamo morti. Cioè... E in più c'è anche il concetto di tradizione non come cosa da mettere dietro a una teca di un museo, ma la tradizione, proprio perché è tradizionale ed è tramandata, è per forza di cose una cosa che si evolve nel tempo. Che deve essere viva in continuazione. E poi da scambiare con gli altri. Cioè io ricordo un gruppo precedente, i musici, siamo trovati una sera nel Donegal a suonare nel pub dei Clannad. Certo. E c'era il babbo di metà dei Clannad e lo zio dell'altra metà dei Clannad che ha cantato con noi in dialetto romagnolo. Non so cosa abbia capito, però si divertiva come un pazzo. Ci voleva anche la sera dopo, solo che dovevamo suonare a Galway e non siamo potuti restare. Però ecco, cioè, a noi piace scambiare, cioè girare, prendere quello che troviamo e dare quel po' che abbiamo da dare. La musica popolare deve essere proprio così, uno scambio continuo di cose, di impressioni, di emozioni. Ma la cultura dovrebbe essere sì. Così. La vita dovrebbe essere così. Lo so. Poi l'Emilia Romagna per definizione è terra di passaggio, insomma, quindi e di scambio, ovviamente. Allora, i Marca Bru sono qui con noi, stiamo ascoltando qualcosa del loro ultimo lavoro che si intitola Derive, un album che è cantato sia in dialetto romagnolo, abbiamo approfondito anche che tipo di dialetto, abbiamo delle canzoni in inglese, abbiamo delle canzoni in francese in particolare, parlando ancora del francese, so che ci sarà ancora un qualcosa adesso che parla di Francia. Avete rivisto anche questa? Assolutamente. Facendola cambiare in positivo? Sì, perché si parla di uno scolaro non certo modello, sì, in questo, sì, caso. Sì. Uno, no? Studente assassino nell'originale, eccolo, no? Assassino di chi? Dell'amante. Uno studente che viene mandato dalla madre ad uccidere la sua amante, non l'amante della madre, dello studente, perché la madre non la sopporta. Ma era la maestra? No, chiedo, si parla anche di maîtresse sicuramente, qui per voi, ecco. Sicuramente una più grande di lui, sì. E nell'originale lui uccide l'amante e porta il cuore alla madre. Noi invece abbiamo salvato la vita all'amante. Lui prende il cuore di una pecora. Povera pecora, ci dispiace anche per la pecora, ma vabbè, dovendo scegliere. Ma forse l'ha trovata già morta e quindi ha preso il cuore, vabbè, e fa credere alla madre di aver ucciso l'amante, e quindi la madre è contenta, l'amante è viva e la madre prende una bella fregatura e la pecora tanto era morta, perché continua ad amare l'amante. Allora, fidandomi del mio accento, dico che i Marca Bru stanno per eseguirci il loro pezzo riveduto e corretto con L'Écolier Assassin. Thank you. bientôt le soleil levé. En arrivant à sa porte, l'entendit minuit sonner. Il la prend par sa main blanche, au jardin l'a emmené. Il a pris sa claire épée, le petit doigt lui a coupé. J'entends la chanson sereine du rossignol est joli. Ah mon Dieu, que de souffrances que j'endure cette nuit. Tu en souffriras bien d'autres avant que la nuit soit finie. Il la couche sur l'épine, aux qui graine sans fleurir. Lui a pris le cœur du ventre, dans sa chemise il l'a mis. J'entends la chanson sereine du rossignol est joli. Tenez main, cruelle mère, voilà le cœur de mamie. Tu as menti par ta bouche, c'est le cœur d'une brebis. Aux montagnes, sur montagne, soutenez-vous donc mon pas. J'ai fait vivre ma maîtresse, je ne mérite pas le trépas. J'entends la chanson sereine du rossignol et je ris. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E direi povera Brebì in questo caso, visto che è quella che è mancata, questa pecorella il cui cuore è finito al posto del cuore di quella che doveva mancare, ma nella storia così riveduta e corretta dei Marca Bru, la fine l'ha fatta questa pecorella, che però i Marca Bru confermano era morta già di morte naturale. Vabbè, ok, questo è L'Écolier Assassin. Tra le altre cose, una curiosità all'interno del pezzo, c'era Marie che suonava un basso davvero particolare. Ne abbiamo visti sempre tanto pochi di questi bassi. È un basso che si chiama basso d'Asbury. Asbury, sì, e che è un basso molto molto corto rispetto al basso tradizionale e ha delle corde di lattice. Silicone. Di silicone, perfetto. Benissimo. E viene, la particolarità è che viene battuto con un martelletto in questo caso. Lei, sì. Sì, ecco. L'ha inventato lei il modo di usare. Infatti, vabbè, la racconto. Dimmi. Quando l'abbiamo preso, non riuscivamo a far uscire una nota. Allora abbiamo visto che il bassista di Caparezza usava lo stesso basso, ma in un pezzo nel concerto. Allora un giorno siamo andati a rompere le scatole al bassista di Caparezza, Giovanni Astori, e a chiedergli: ma come si suona sto affare qua? E lui ci ha proprio, prima del concerto, ci ha chiamati sul palco a farci provare il suo, eccetera. Dice: deve essere molto leggero, bisogna suonare molto leggero perché le corde non tengono l'intonazione, altrimenti va bene. Capito, adesso lo vedrai. Lei ha preso un bastone, ha cominciato a... e allora l'ha suonato col bastone. Ho capito, molto chiaro. Questo pezzo che avete eseguito, c'è un parallelismo, non so se siete d'accordo. Tempo fa, un certo Nick Cave e PJ Harvey avevano fatto un disco Murder Ballad, le ballate degli assassini. Non hanno cambiato il testo, chiaramente rimane il testo come era originariamente. Non c'entra niente, però a me viene in mente in quel discorso là, quel legame, perché nella tradizione, come tu giustamente hai detto, tanti assassini nella tradizione popolare, assolutamente tanti assassini. Nick Cave l'ha riveduta e corretta senza cambiare il testo, l'ha riveduto e corretto nel modo di cantarlo al suo modo. Voi l'avete riveduto e corretto nel modo di cantarlo al vostro modo. Piuttosto anche voi un po' oscuro, decisamente oscuro, però più meno oscuro di Nick Cave, a mio parere. Sì, forse ti riferisci sì, a Fire Below Harley. Esatto, esattamente. Harley. Diciamo che Marie viene dal gotico, dalla musica un po' oscura. Un po' oscura, arte, esattamente. Sì, sì. E quindi ci influenza a volte nelle... E anche la musica Breton in generale è comunque più scura. La musica Breton è abbastanza scura, le ballate popolari sono sanguinarie. Assolutamente sanguinarie. E noi stiamo cominciando a lavorare proprio su un progetto di questo tipo. Guarda, ma non dire nulla. Non ce l'hanno neanche preparati. Ah, però. Non dico nulla, non faccio nomi. Certo. Però i cognomi... No, No, ma è un discorso interessante, secondo me. Stiamo organizzando uno spettacolo con uno scrittore di cui però non faccio nome, importante, perfetto, che scrive libri gotici, e noi ci metteremo le ballate gotiche europee. Lui ci metterà storie sue e storie di altri scrittori del passato italiani, ma sempre in linea con questo. Quando verremo a sapere di questo progetto così nascosto da non probabilmente citare nomi e cognomi? Primi mesi dell'anno prossimo. Del 2012. 2012. Quindi ci state già lavorando. È comunque dentro. Lavorazione. Sì, sì, ma sì. Ci sarà anche un disco su queste cose oppure no? Per ora non è previsto. Non è previsto, purtroppo. Però. Purtroppo non è previsto, però sarà previsto. Magari, non si sa mai. Magari un live. Però Henry Lee dice, mi gira per la testa, fra un po' rovineremo anche quella. Ah, bene, bene. Sarò molto contento di sentirla rovinata da voi. Assolutamente. Anche perché voglio dire, adesso questo progetto che porterete in giro per l'Italia, sicuramente ci sarà qualcuno che chiede come si fa a recuperare un vostro disco marca Bru. Quello è duro. Diciamo contattandoci direttamente sul nostro sito, abbiamo un sito web, abbiamo una pagina MySpace, oppure potete trovarci su Facebook, oppure i concerti. Se avete il baracchino come si usa spesso e volentieri, e si usava e si userà sempre ormai, c'è no, poco da fare. Di solito vengono direttamente tra un pezzo e l'altro o anche durante il pezzo. A chiedere il disco. Però. Capita molto spesso. Okay. Noi proviamo a spiegargli che dobbiamo almeno finire il pezzo, a volte è duro. Ah, dobbiamo andare via, vendeteci. Vabbè. Sono cose che succedono, sono cose chi ama, sono belle cose da raccontare. Chi ama la musica, effettivamente. Allora, adesso facciamo una piccola pausa ascoltando un altro brano del vostro disco, appunto, che è uscito nel 2007. Il titolo è Folk Randagio. E da questo album prendiamo fuori Palestina per farlo ascoltare anche ai nostri ascoltatori e dopo torneremo insieme a commentarlo dagli studi di Blu Radio Veneto. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock, l'onda del rock. Abenamar, Abenamar, moro dell'amoreria, è lì che tu nasiste, grande segna le sabbia. Stava la mar in calma, la luna stava crescida, moro che in tal segno nasce, no te vete sir mentira. La brusa, la mania l'aria, senza gambi, senza brasi, come faremo, come potremmo fare, re di biastema, il zuga, coris de veil, stede signor, il zuga e rid, la vizia e la vita, estin, estin, Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E abbiamo ascoltato questo Palestina, tratto dall'album targato 2007, sempre di Marca Bru, intitolato Folk Randagio, con una canzone che iniziava in spagnolo, se non ho capito male le parole. Gallego medievale. In gallego medievale si riconoscevano molte parole. È una canzone degli ebrei sefarditi che vennero cacciati via intorno al 500, 1500 dalla Spagna, e cominciano a girare per tutta Europa, perché ce n'erano moltissimi, ce n'erano tanti in Spagna, e vengono cacciati via per purificare il sangue degli spagnoli. Sì, e così portarono la loro ricchezza in Olanda, che diventa la più grande potenza economica europea, anche grazie a loro. Bene, quindi abbiamo ascoltato questa canzone, appunto intitolata Palestina, che poi prosegue in un'altra lingua, quindi la vostra lingua in questo caso. Il nostro caso. Dialetto, sì. Ancora una poesia di Fabio Molari, è sul problema palestinese che non si riesce a risolvere. Cioè, questa ce l'ha data 6-7 anni fa, e pensavamo, ma fra un po' di tempo questa non sarà più attuale, perché tanto prima o poi si risolverà. No. Si parla di questo muro che volevamo costruire, noi sogniamo che un giorno si riesca a saltare al di là del muro. Visto che ci siamo riusciti col muro di Berlino, si spera, però... Ci sono altri interessi. Sì, ci sono molti altri interessi. Vabbè, noi siamo qui invece a parlare di musica, anche se la musica è un valido motore per dare dei messaggi importanti. Si vuole dire una cosa, Flavio. Folk Randagio, che era il loro primo disco, ha riscosso notevoli positive recensioni in giro, e vi ha aperto molte strade, oppure no, Fabio e compagni? Diciamo che sì, devi avvicinarti un momentino. Sì. Diciamo che ci ha fatti conoscere un po' di più oltre rispetto ai luoghi dove ci conoscevano. Resta comunque complicato trovare concerti. Questo è un problema, un momento abbastanza difficile, e quindi forse non ci ha procurato, diciamo, la musica dal vivo che ci aspettavamo. Speriamo che Derive riesca ad alimentare di più il discorso, promuovere maggiormente, ecco, la perché è difficile suonare pezzi vostri dal vivo. Ma perché noi siamo più adatti per il concerto, cioè il disco va bene, ma cioè quello che riusciamo a farlo meglio dal vivo. Ho capito. Giustamente Maria diceva che qualche volta il disco è un po' stanca, l'avete sentito un sacco di volte, avete provato un sacco di volte, dovete lasciarlo là, da una parte. Sì, poi cioè, i pezzi li facciamo ogni volta che li eseguiamo in modo diverso. Quello è bello. Quindi il disco non è più riconoscibile, è riconoscibile sì perché siete voi, però... Certi pezzi cambiano, a volte cambia il testo, a volte cambia l'arrangiamento. Ma c'è da dire anche che noi facciamo un disco dopo che i pezzi li abbiamo già suonati in concerto. Ah. Per dire, alla presentazione del primo disco abbiamo suonato quasi tutto il secondo disco. Ah, perfetto. Quindi stanca anche per quello. Nel senso, la gente diceva, e il disco che presentate quando lo suonate? adesso sul banchetto e lo comprate. Così lo ascoltate. Anche la presentazione di questo, che ci sarà sabato 12 novembre, suoneremo diversi pezzi che saranno nel prossimo. E in effetti è un po' anche quello che è successo qui in questa serata, perché si doveva presentare Derive, in realtà poi sono arrivate degli altri derivati di Derive, quindi siamo sempre appena lì. Nato. Allora, prima si citava Nick Cave con i Bad Seeds, si citavano appunto queste ballate, e sempre per rimanere in tema Cave c'è questa Fire Down Below, che quell'inferno ci ha influenzato molto. Sì, questa è la storia della figlia del pastore, che è la più peccatrice che c'è in giro, e un giorno arrivano... Pastore inteso come parroco, in questo caso. Pastore, sì, protestante, sì. Questo è un traditional americano. E arriva questa nave con questi strani individui che la prendono e la portano via. In questa nave però accadono cose strane, tipo il fuoco che viene su da sotto. Quindi non è proprio una nave normalissima. Non è una nave normalissima, è l'Inferno Sepolto, cantata anche da Nick Cave, questo Fire Down Below. The parson's daughter with red and rosy cheeks. Hey, hi, hey, hi, ho. She went to church on Sunday in sunny Hampton Street. There is fire down below. Parson was a misery, so scraggy and so thin. Hey, hi, hey, hi, ho. Look here, motherfuckers, if you lead a life of sin, there's fire down below. From Malachi, pull the world face. Hey, hi, hey, hi, ho. Well, I fucked up for Africa, and there it fell from grace. There's fire down below. The parson little daughter was a sweet sugar candy. Hey, hi, hey, hi, ho. Say to her a sailor would make lovers neat and handy. There's fire down below. She say to me, a sailor are a bunch of fucking liars. Way, hi, hi, hi, ho. You are bound to hell to feed the fucking fires. There is fire down below. There is fire down below, my lads. We must do what we are to. Way, hi, hi, hi, ho. Got the fire not alpha hot. The parson little daughter, there is fire down below. There is fire down below. There is fire down below. It's fire. There is fire down below. Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. E abbiamo sentito l'aggressività di questa canzone Fire Down Below, questa canzone cantata da, da Fabio, e si sentivano in sottofondo anche le voci dei pirati, in questo caso di Fiorino Fiorenzo e di Marie, i pirati che stavano lì in questa nave maledetta, si può dire, alle, alle porte dell'inferno. In questo caso è una canzone che naturalmente chi ama la musica tradizionale e non solo avrà già avuto modo di ascoltare già anche in altre formulazioni musicali. Un'aggressività cadenzata, possiamo dire, da parte della nostra band stasera, volutamente cadenzata in questo, con questo ritmo, un ritmo volutamente lento ma di impatto, questo è chiaro. La versione vostra, chiaramente, fuori da tutti gli schemi, perché giusto, non ci devono essere schemi, una vostra versione e basta, chiuso. Ma è, cioè, sì, magari ascoltiamo qualcosa e poi lo facciamo girare finché non diventa nostro. E chiaramente, se è dal vivo si cambia ad ogni volta o rimane sempre la stessa? Dipende dal brano, a volte cambiano. Mm. A volte cambiano. Dicevo di questo. Ah, questo. No, questo è uno di quelli che è abbastanza più fissato. Sì, però sto già studiando qualcosa. Mamma mia. Ma avverti gli altri poi oppure... No. Ah, all'ultimo momento. Ma è quello il bello. No, che è all'ultimo momento? Lo impariamo suonando. Ah, bene. No, perché... Stasera abbiamo una scaletta, ma noi sì. Per anni abbiamo suonato senza scaletta. Ah, perfetto. Se arrivo lì e dico adesso facciamo questa e via. E via, perfetto. C'erano noi e la E-Street Band, facciamo così. Esatto, è così. È vero. Tu sei gli Springsteen di loro praticamente. Io mi prendevo gli insulti. Perché... Anche nostri ovviamente. Beh certo, è il minimo, no? Vabbè, è un rischio che si deve correre. No, comunque... però se vengono c'è sì. Soddisfazione. Certo. Allora, Marc Abreu con questo album Derive, questo album con tante musiche tradizionali rivedute e corrette dai Marc Abreu, ma anche musiche proprie e anche, diciamo, canzoni anche di altri autori. Come mai c'è finita dentro anche una canzone di Pearl Jam? In questo caso stiamo parlando di Wishlist, che è inserita all'interno di, penso, il quinto o sesto disco di Pearl Jam, sì. Con quel titolo impronunciabile, tipo... Yeld, sì. I Pearl Jam sono per Fiorenzo. Dai, dillo te. È di Vedder, chi è per Eddie Vedder? Allora? Beh, io ho iniziato suonando le loro cose. Mm. Quindi... Anche l'ukulele. No, l'ukulele, anche perché l'ukulele è arrivato adesso. Sì, esattamente. Io ho iniziato suonando le canzoni del Pearl Jam, la musica grunge che allora era una novità. Io, quindicenne, mi sono fatto prendere da questa onda. Che poi ha unito anche me e Marie, perché ho fatto conoscere il progetto a Marie che non conosceva e adesso sono diventati un gruppo di riferimento anche per lei, quindi abbiamo voluto omaggiare la nostra passione comune per questa band che continua a darci soddisfazioni. Sì, che è una novità, cioè lei c'è una band che secondo me, Flavio, non so se sei d'accordo, sì. Riesce ad ogni disco cambia ad ogni disco, quello è importante. Non è facile, perché uno ha un grande successo, tende a copiare, a ripetersi, no, con gli Pearl Jam no, non succede mai. Io ho comprato l'ukulele. Ah, bene, per quello. Perfetto, una grande... I Pearl Jam sono una band comunque che ha fatto della propria bandiera il live, certo, più certo. Che i dischi. Certo. I dischi, come loro stessi dicono, sono un pretesto per poi fare un tour. Sì. E noi facciamo un po' uguale, un po' allo stesso modo. Ah, però hanno inciso tanti live, cofanetto sì. Di tanti live in giro per il mondo. Certo, hanno certo. Inciso i famosi live dappertutto. Elio l'ha fatto prima. Elio l'ha fatto prima. Che l'ha fatto. Fabio è un... sostenitore di questa cosa, giusta però, per onestà devo dire che è vero. Bene, allora adesso mancano un po' di minuti alla mezzanotte, quindi il tempo in cui noi saluteremo i Marc Abreu, però abbiamo ancora un'ampia scaletta di musica live, e quindi un qualcosa che parla dell'orco. Allora, questa è sì. Un inedito, non è contenuto in nessuno dei due album e l'abbiamo, diciamo, costruita per il concorso che avevamo vinto lo scorso anno, l'abbiamo riproposto e ci hanno dato un riconoscimento anche quest'anno, sempre al MEI e sempre al Festival della Letteratura. Ricordiamo che cos'è il MEI, che forse qualcuno non lo sa. Il meeting delle etichette indipendenti. Ecco, perfetto, è molto importante. Che quest'anno si è spostato in Puglia, certo. È rimasto in parte a Faenza, in parte in Puglia, dove già la parte grossa è là. L'ogre l'abbiamo preso ancora da un poeta, Victor Hugo, francese, la storia di un orco che si innamora di una fata e un giorno va a casa della fata e c'è il bambino della fata, c'è il figlio della fata e non c'è la fata e lui è un orco. Vi lascio immaginare come va a finire. Bene, allora l'ascoltiamo, l'ogre con i Marc Abreu. Bravo, membre des bois natifs de Moscovie était fort amoureux d'une fée. Et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. Ce pauvre cœur tout brut. Ce pauvre cœur tout brut. Le grand beau jour d'hiver peigne sa peau velue, se présente à l'allée de la fée, salut, et s'annonce à Lucie comme le prince Ogrovski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui, on ne sait pas de qui, on ne sait pas de qui. Ce jour-là sorti quant aux mioches, bel enfant l'on nourrit de crème et de brioche. Donc fait par Calculus à cette calypso, il était sous la porte et jouait au cerceau. On laissa alors et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre? Et quand on n'a personne avec qui dire un mot, l'ogre se mit alors à croquer le marmot. À croquer le marmot. À croquer le marmot. I will remain in this world. Pourtant, c'est aller un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants, on s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai? Le bon ogre naïf lui dit, je l'ai mangé, je l'ai mangé, je l'ai mangé. We remain in this world. I will remain in this world. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E ci siamo ascoltati anche questa storia dell'ogre, una storia che insomma non è finita propriamente bene in questo caso, no Fabio? Perché mi sembra di aver capito che abbiamo lasciato l'orco con una digestione in corso. Che poi la fata non ne ha più voluto sapere. No, assolutamente no. Poi la fata ha scelto altri personaggi, voglio dire. E questo le raccontano invece le fiabe. L'orco è rimasto da solo. L'orco è rimasto da solo. Benissimo, quindi questo è l'ogre. Dove potremmo ascoltare ancora questo pezzo? Oddio. Nel prossimo disco. Nel prossimo disco, vero? Ecco nel qua. Prossimo disco, nello spettacolo gotico che stiamo Ma mettendo. Temo che nel prossimo disco avrà un finale diverso. Ah. Bene, bene. No, bene. Dici no. Ma musicalmente nel prossimo disco il finale di questo pezzo è così tronco? Volutamente così tronco? Sì. Oppure sì? E deve essere così. Brusco. È brusco, esattamente. I DJ stanno in allerta loro con questo finale. Perché che cosa dentro il vostro pezzo? In ogni caso è molto interessante. Anche l'andamento musicale, quasi Maria mi sembrava che declamasse, più che cantasse, declamasse il pezzo. È una poesia, chiaramente. Una poesia, ricordiamo, di Victor Hugo, no? Quindi riveduta e corretta oppure presa integralmente dal francese? E in parte riveduta, e soprattutto il coro finale del bambino che non sparisce, si chiede ma perché? Cosa mi è successo? Io non voglio andare via e rimango qua. Resta il mistero, se l'hai mangiato o non se l'hai mangiato. Comunque la fata non è voluto più sapere. Certo. Quello è sicuro. Quello è confermato, esatto. Benissimo. Allora, dove potremmo trovare Marca Bru in concerto? C'è qualche data che possiamo dare ai nostri amici del Veneto? In Veneto è dura. Ci piacerebbe molto, ma beh. Non è ancora capitato. Invece per chi ci ascolta in streaming audio, che è un po' più lontano, momento, sì? presentazione del disco a Forlimpopoli, a casa, e poi abbiamo il 12 novembre, sì, dimentico sempre la metà delle cose, e abbiamo il 24 novembre a Gambettola, sempre vicino Gambettola, a casa, a Cesena, a concerto. E poi speriamo ci chiamino molto, molto presto per altre date. Il 12 novembre ci sarà una presentazione con una band allargata o siete voi e basta? Beh, coglieremo l'occasione per chiamare un po' di personaggi a salire sulla nostra barca. Bene. Personaggi che ci hanno in questi anni accompagnato e hanno collaborato a vario titolo con noi. Possiamo citare qualche altro collaboratore del disco ultimo che avete inciso, oltre a voi? No, nel disco ultimo no, abbiamo fatto tutto. Avete fatto tutto voi, produzione compresa. Produzione compresa, tutto. Come? Dimmi. Come? Ah, giusto, citiamo il fonico che ci segue da anni, che è Fabio Clementi, detto Il Magro. Fa tutto volontariamente. Che fa tutto volontariamente e ci sarà anche per la presentazione, quindi ci saranno dei buoni suoni, per fortuna. L'etichetta è vostra? Sì. Si chiama etichetta? Marca Bru. Marca Bru, direttamente, semplicemente, chiaramente. Bene, allora ascoltiamo un altro pezzo del vostro lavoro da disco, diamo la traccia numero 8, sono sempre delle pronunce davvero particolari, anzi in questo caso chiederei di presentarla a uno di voi, questo pezzo che andiamo ad ascoltare, la traccia numero 8. Clackolden, sì. Praticamente è un canto di lavoro di quelli che in America, negli Stati Uniti, lavoravano alla costruzione della ferrovia. È uno dei pezzi più grunge che abbiamo scritto. Bene. È un pezzo tradizionale americano comunque. Bene, l'ascoltiamo allora. Blu Radio Veneto Rock. Sometimes two, sometimes one. Your hand clicking the same, and it makes your eyes bring. You go here. successful. Blu Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo dal titolo così particolare, Clack Old Hen, ci ho provato anch'io a dirla, e sono i Marca Brew dal loro ultimo lavoro che si intitola Derivi, i Marca Brew che sono venuti a trovarci qui in diretta radiofonica all'interno dei nostri studi di Blu Radio Veneto ancora per qualche minuto, e abbiamo imparato a percorrere, ad apprezzare la musica dei Marca Brew sia da questo album appunto Derive sia dall'album precedente Folk Randagio. Allora abbiamo già chiesto quelli che sono i programmi per il futuro, li sappiamo già e anzi si sono prenotati per un'altra serata qui da noi prossimamente, siamo curiosissimi di ascoltare anche il loro prossimo lavoro, anche se abbiamo già carpito perlomeno qualche anticipazione. Questo disco, l'ultimo pezzo Flavio che abbiamo sentito adesso, era molto complicato nel senso positivo del termine, con un sacco di input, arrivava quasi al funk, esattamente alla fine un'esplosione totale con un inizio alla Bob Orali degli U, chiaramente solo qualche secondo, assolutamente qualche secondo, poi il pezzo si sviluppava e il funk finale, un'esplosione finale, la gente deve muoversi, deve sudare, deve capire che bisogna, c'è il movimento, c'è poco da fare, Flavio. Sì, un canto di lavoro, cioè, ti spinge a volte anche a sudare. Il movimento. Certo. E in questo caso il percussionista aveva anche la batteria sotto mano. Ma in realtà con i Marca Brew suono quasi sempre la batteria, tranne in qualche caso. Oggi qui suono le percussioni per questioni logistiche, di spazio praticamente. Anche perché nel live acustico, voglio dire, questa situazione così con le percussioni rende, no? Sì, rende. Beh, intercaliamo poi sempre anche sonorità diverse, quindi le percussioni non mancano mai. Magari per i pezzi più raccolti, diciamo, perché poi quando passi dalla batteria a una percussione acustica il salto è sempre un po' traumatico, insomma, quindi lo usiamo nei momenti di, tra virgolette, raccoglimento, per poi riesplodere con la batteria nel pezzo dopo. Cioè, questo pezzo, nella batteria usi i piatti all'inverosimile al finale oppure no? Beh, mi sono divertito. Sì. Bene, perfetto. Ok. Diciamo che si guardava in giro picchiettando qua e là. Benissimo, allora sono le 23:56, quasi 57 minuti primi, sempre con Rock Wave, l'onda del rock e Blu Radio Veneto. E siamo arrivati ai momenti dei saluti, quindi noi ringraziamo i Marca Brew di essere venuti da noi per proporci quella che è la loro musica, questa musica davvero particolare, un po' complessa, che però ascoltata nell'insieme è davvero meravigliosa, quindi grazie ragazzi di essere stati qui. Grazie a voi per averci ospitati. Grazie a voi davvero. Allora non pensate di andarvene adesso perché c'è un ultimo pezzo che ci dovete regalare. Allora io e Maurizio salutiamo gli ascoltatori, vi lasciamo da soli con i microfoni aperti, e ci sarà un altro pezzo che ci fate ascoltare, che è una ballata irlandese in questo caso. Sì, questa ce l'ho proprio insegnata dai bambini irlandesi molti anni fa a Dublino. È una cosa che cantano loro proprio nei giochi. È la storia di una vecchia che viveva nel bosco. Questa vecchia, un po' una strega, e aveva un bambino piccolo. Aveva un coltello lungo. E un giorno infilò il coltello lungo nella testa del bambino. Ecco, questa è la storia, ce l'ha raccontata i bambini, quindi noi non siamo responsabili di quello che andiamo a delle immagini fornite. No, cantano i bambini, vabbè. E noi l'abbiamo modificata, poi come finisce? Finisce che arrivano due poliziotti, la prendono, la impiccano, eccetera. E qui invece finisce diversamente, cioè che la vecchia non ammazza il bambino, arrivano i poliziotti e... come finisce, Maria? Che alla fine provano ad ammazzare i poliziotti. Bene, allora ascoltiamo questo turbinio. Benissimo, allora Maurizio, noi salutiamo gli ascoltatori, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Cazzavara, il solito grande caloroso ciao, buonanotte a tutti, vi lasciamo ancora con l'ultimo pezzo di Marca Brew, grazie ancora per essere stati con noi e buon rientro in quel di Forlì in Popoli. Grazie ragazzi. Grazie. was an old woman and she lived in the woods. There was an old woman and she lived in the woods. There was an old woman and she lived in the woods. Down by the river soil. Baby 3 months old, waila waila waila. She had the baby 3 months old down by the river soil. She had a penknife long and sharp, waila waila waila. She had the penknife long and sharp down by the river saw oila. There was an old woman and she lived in the woods. She had a penknife long and sharp. She had a baby 3 months old. She put the penknife in the baby's hand. Three policemen came knocking at the door. She pulled the rope and they were hung. That was the end of the woman in the woods. And that was the end of the police in the woods. In the woods. There was an old woman and she lived in the woods. There was an old woman and she lived in the woods. She had a baby 3 months old. She had a baby 3 months old. She had a penknife long and sharp. She had a penknife long and sharp. She put the penknife in the baby's hand. Put the penknife in the baby's hand. Policeman came knocking at the door. Policeman came knocking at the door. She pulled the rope and they were gone. Pulled the rope and they were gone. That was the end of the woman in the woods. That was the end of the palace in the woods. That was the end of the baby in the woods. That was the end of the palace in the woods. In the woods. In the woods. In the woods. Rock Wave, l'onda del rock.